Vangelo di Matteo, capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo, e mandò i suoi servitori a chiamar gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori, dicendo: Dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere le loro città. Quindi disse ai suoi servitori: «Le nozze, sì, son pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: «Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze?» E costui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Allora i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per veder di coglierlo in un fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci, dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no?» Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» E gli risposero: «Di Cesare». Allora egli disse loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta». Ma Gesù rispondendo disse loro: «Voi errate perché non conoscete le scritture e né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi». E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Or i farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si raunarono insieme, ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso, ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ora, essendo i farisei raunati, Gesù li interrogò, dicendo: che vi par egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo? Essi gli dissero: di Davide. Ed egli a loro: come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, com'è egli suo figliuolo? E nessun poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.